te sento nel mio cuore l'anima vibrare d'amore. Tutti i miei pensieri guardami nel primo sole nasce un fiore, dal primo bacio il primo amore per te. Forse credo ancora di poter sognare, sperando uniti per tutta la vita, ti potremo amare così.